l'Evangelo per radio. Il vero carattere del cristiano. Sono convinto, cari ascoltatori, che in queste trasmissioni più di una volta è stato parlato su chi è il vero cristiano. Ma altresì sono convinto che non si può mai parlare troppo di questo soggetto. Perciò desidero, anche io, esprimere la mia opinione. Nel nostro paese, dove il cristianesimo è diventato la religione ufficiale, per avere il nome di cristiano è sufficiente nascere in una famiglia cattolica o protestante ed essere battezzati. Così, per molto tempo, questo nome portato per tutto il mondo ha perso il suo vero significato. Ma non era così all'inizio dell'era cristiana. Solo quelli che si erano convertiti al Signore dopo aver ascoltato e creduto all'Evangelo erano battezzati e introdotti nella Chiesa. E questo lo troviamo scritto nel libro degli Atti degli Apostoli. Infatti leggiamo: quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. In quel giorno aggiunti a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, e ogni anima era presa da timore. E molti prodigi e segni erano fatti dagli Apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme, ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni, e distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al Tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo il favore di tutto il popolo. Sempre nel libro degli Atti, noi leggiamo che il nome di cristiano fu dato per la prima volta, nella città di Antiochia, ai discepoli di Cristo. Essi erano usciti dal giudaismo, altri, più tardi, sarebbero venuti fuori dal paganesimo, rompendo ogni rapporto con esso tramite una conversione veritiera, e avrebbero manifestato agli occhi del mondo un cambiamento totale di vita. Il cristianesimo alle origini non era una semplice formalità esteriore né l'insegna di una società particolare e neppure la mera osservanza di nuovi riti o la pratica di un nuovo culto, ma era una vita nuova. Oggi, a causa del progressivo allontanamento dalla verità evangelica, siamo arrivati ad arrogarci il nome di cristiani senza possedere necessariamente la vita di Dio che è nel suo figliolo Gesù. Infatti l'Apostolo Giovanni scrisse nella sua prima lettera: «E la testimonianza è questa, il Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita». Così l'uomo, la cui condotta più o meno spesso contrasta con gli insegnamenti di Gesù, porta il nome di cristiano così come lo porta il fedele rigenerato. Questa grave incoerenza produce una grande confusione falsa il principio della vera appartenenza alla Chiesa di Dio. Perdendo sempre di più la nozione biblica del cristianesimo per forza di cose, per tradizione, per educazione, si è divenuti cristiani come i bimbi dei genitori buddisti sono buddisti o i figli dei genitori musulmani sono musulmani. Ora, se il buddismo e il maomettanesimo possono essere un privilegio di nascita, non è così del cristianesimo. Non si nasce cristiani, si diventa per mezzo di una nuova nascita. Come infatti disse Gesù a Nicodemo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quindi, qualunque sia la religione dell'ambiente in cui noi viviamo, noi siamo nati peccatori in questo mondo. Il nostro grande privilegio rispetto ai pagani è che noi abbiamo la possibilità di ascoltare l'Evangelo fin dall'infanzia. Ma questo immenso vantaggio, non dimentichiamolo, aumenta enormemente la nostra responsabilità. Nel momento attuale è necessario che comprendiamo nuovamente il senso profondo del carattere del cristiano. Non accontentiamoci di nozioni indeterminate, perché è venuta l'ora di mostrare il colore del nostro vessillo. Arriviamo a tempi decisivi in cui l'indifferenza e la neutralità spirituale non potranno più sopravvivere. L'ora del pro e del contro sta per scorrere sull'orologio della storia. Fino ad ora, nel nostro paese, i cristiani non sono stati messi troppo alla prova, ma forse non sarà sempre così. Il nostro cristianesimo è pronto a subire il fuoco del crogiolo? Sono domande queste che ci devono far riflettere. Se tu che ti dichiari cristiano non sei pronto a morire per la tua fede, non sei degno di portare questo nome. Se tu che ti dichiari cristiano non hai il coraggio di lasciarti prendere in giro, non hai il coraggio di lasciarti schernire, ebbene tu allora non sei degno di portare questo nome. Il vero cristiano è colui che segue le orme di Cristo, e Cristo, troviamo nella Scrittura, è stato schiaffeggiato, è stato ripudiato, è stato maltrattato, ma egli non aprì bocca. Ora, se Gesù non è stato riconosciuto, quale pretesa possiamo avere noi? Quale pretesa puoi avere tu che la gente ti riconosca e ti apprezzi? Sì, la gente ti può apprezzare come una brava persona, ma automaticamente è obbligata a contendere con il tuo messaggio. Il messaggio evangelico è un messaggio che si contrappone all'opinione pubblica e non può quindi essere apprezzato. Il messaggio dell'Evangelo dichiara l'uomo perduto o malvagio. Ebbene, l'uomo deve accettare questo, e accettare questo vuol dire rinunciare ad ogni opinione buona che l'uomo ha di se stesso. Quindi, se tu sei un cristiano, confessa Gesù Cristo, ma se non hai il coraggio di confessarlo, allora devi dubitare della tua fede in Gesù.